Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'da bu hafta İtalya için değil, İstanbul için şarkılar dinleyeceksiniz. Denize dair şarkılar dinleyeceğiz. Çünkü İstanbul'da deniz artık can çekişiyor. Dün Isparta'dan dönerken, İstanbul'un üstünden uçarken müsilajın o ağıt gibi halini gördüm ve aynı zamanda da sabahlıktan bildiğiniz sevgili Didem Gençtürk'le konuşurken, evet, bu hafta denize dair şarkılar çalayım ben diye karar verdik. Salentolu müzisyen Mino De Santis'ten geliyor. Il Mare radyonuzda. Il mare è una tavola azzurra che brilla e si culla e schizza sulla roccia bruna la sua bianca schiuma e il cielo gli si specchia dentro e di sé lo colora e il sole di caldo lo bacia ed il vento lo sfiora. Ci svela il segreto del tempo che è solo un istante e prova a se stesso che vivo col suo moto incessante. Concreto ed insieme irreale sa di acqua e di sale, ma l'acqua ed il sale non bastano a renderlo mare. Si increspa, si gonfia, può essere furia o bonaccia. Avvolge, ispira, consola, nasconde e minaccia. Nel fondo c'è un mondo che cela e protegge dal resto del mondo che è fuori da ogni sua legge. Dal resto del mondo che è fuori da ogni sua legge. Bagna la terra che madre, amante e sorella. Disteso contempla quel cielo con ogni sua stella. Dei pesci e le barche non può trattenere le impronte. Rimane la linea infinita di lui all'orizzonte. Respira le nuvole, il vento e si nutre di pioggia. Poi cede e riprende se stesso bagnando la spiaggia. Da quando c'è il tempo col tempo continua a giocare. Ma in fondo non può fare altro che essere mare. E noi ancora qui a contemplarlo cercando parole, noi persi davanti a qualcosa che non so spiegare. Il senso, la causa, l'effetto, la sua dimensione. Finiamo col dire che c'è solo l'acqua ed il sale. Finiamo col dire che c'è solo l'acqua ed il sale. De Santis'ten dinledik. İlmare Radyonuz'daydı. Şimdi yine bir Salento'lu bir grupla devam ediyoruz. Negra Maro isimli bir İtalyan pop grubu. 1999 yılında kuruldular. Ve 2005 yılında Sanremo Müzik Festivali ile oldukça büyük bir üne kavuşuyorlar. Şimdi onlardan dinliyoruz. Neanche il mare ile Negra Maro radyonuzda. Quando vai via da me, porta via quello che sei. Sai che pesa su di me la tua pelle se poi non c'è. Tanto non mi importa quanto cielo dovrò strappare per coprire e accarezzare quel sorriso che neanche il mare sa di avere. Oh. E se sarai via da me, io sarò quello che sei. Su di te la mia pelle se poi non c'è. Tanto non mi importa quanto cielo dovrò strappare per coprire e accarezzare quel sorriso che neanche il mare sa di avere. E non mi importa e se anche il cielo non sa aspettare, ile Negra Maro radyonuzdaydı. Şimdi Luca Carboni bizlerle olacak. 1962 Bologna doğumlu müzisyen, şarkı sözü yazarı, ressam ve marangoz olan Carboni müzik kariyerine 1981 yılında Teobaldi Rock grubunun gitaristi olarak başlıyor ve 1983 itibariyle de solo olarak kariyerine devam ediyor. Biz şimdi Carboni'den Mare Mare'yi dinleyeceğiz. Mare Mare, deniz deniz demek. Bu şarkının sözlerini Carboni Mauro Malavasi ile birlikte yazmış. Mare Mare, radyonuzda. Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada. prendo l'aria sulla faccia. Olè, tengo il ritmo, prendo un caffè. Non lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna con le luci della sera, ma forse tu mi stai aspettando. Io attraverso il mondo, olè, questa notte mi porta via. Ale, questa vita mi porta via, mi porta al mare. Ah. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì, e che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, mare, mare, ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì, per stare a galle e non affondare, no, no, yeah. Qui sul muro a parlare all'infinito le ragazze che sghignazzano e mi fanno sentire solo. Non si ma cosa son venuto a fare, ho già un sonno d'amore. Carboni, Mare Mare ile radyonuzdaydı. Şimdi 2016 yılından bir düet dinleyeceğiz. Franco Battiato ve Alice'nin bir konser kaydını dinleyeceğiz. Ve fakat bu parça Battiato'nun tarzının sentezi olan çok güzel bir özet parça diyebilirim. Dinleyen insanı her yere götürebilen, aklını yaza çalan bir şarkı. Muhtemelen de o 1970'lerin açık hava sinemalarının olduğu, işte Nuova Cinema Paradiso'lardan bahsedilen, turistler için belki yalnızca otellere dair olan ama aslında Montalbano'nun romanlarında sıkça bahsedilen o muhteşem Sicilya yazlarını anlatan bir güzel parça. Güzel bir konser düetiyle bizle olacak. Franco Battiato ve Alice, Summer on a Solitary Beach ile radyonuzda. Müzik d'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Quando il sole ci nutriva di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, mare, mare, voglio annegare, portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Wonderful summer on a solitary beach against the sea, le Grand Hotel Cigale Magique, mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare, mare, mare, voglio annegare, portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Bir Franco Battiato ve Alice Diotti dinledik. Summer on a Solitary Beach. Şimdi bir diğer İtalyan efsanesi diyeyim. 1943 doğumlu ve 1998 yılında aramızdan ayrılan Lucio Battisti bizlerle olacak. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı aslında bir yaz şarkısı. Güneşin şarkısı diye çevirebileceğimiz. Gecenin gölgeleri ve hayaletleri, ağaçlar ve çalılar hala çiçekli ve bir kadının gözleri hala aşk ile dolu diye başlayan ve Karadeniz'e, Siyah Deniz'e sitem duyan bir yaz şarkısıyla geliyor. Lucio Battisti, La Canzone del Sole, Güneş'in şarkısıyla şimdi Açık Radyo'da. Bionde trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse.

60'ların, daha doğrusu 70'lerin ve 80'lerin çok ünlü bir müzisyeni. Sözlerini Gayo Kakyo'nun ve Tony Chicho'nun yazdığı Denize Her Gittiğimde radyonuzda. Ma vorrei solo dormire, sognare, io voglio le stelle che non mi facciano pensare che un altro amore, una nuova emozione mi sappia dare. Fuori niente luna, dentro niente amore, ma ogni volta che vedo il mare sono abbagliata, mi devo fermare, non capisco, mi metto a pensare a chi di notte non riesco a vedere. Ma ogni volta che è difficile preparare con questo straccio di anima dentro. È molto strano che io sia contenta adesso. Ogni volta che vedo il mare, ogni volta che vedo il mare, ma sui miei occhi un'altra notte e sulle labbra altre canzoni, in fondo al cuore parole che non so più dire, che parlano troppo piano, volti e sorrisi lontani. Amici, pochi amici, stretti come pugnali sottili, e sanno anche come farmi divertire. Dire che li posso amare sarebbe un po' come tornare. A ogni volta che vedo il mare sono abbagliata e mi devo fermare, non capisco, mi metto a pensare a chi di notte non a vedere. Ma ogni volta che vedo il mare è difficile bleffare con questo straccio d'anima dentro. È molto strano che io sia contenta adesso. Ogni volta che vedo il mare, ogni volta che vedo molto strano che io sia contenta adesso. Ogni volta che vedo il mare, ogni volta che vedo il mare, ogni volta che vedo il mare, ogni volta che Ogni volta che vedo il mare radyonuzdaydı. Şimdi Fabrizio De André'nin aynı isimli albümünden Rimini radyonuzda olacak. Rimini her zamanki gibi De André'nin meselesi olan parçalardan biri. Çünkü bu parçada bir bakkalın kızı olan Rimini'li Teresa'nın hayal gücünün yolculuğuna şahit oluyoruz. Bir yaz aşkından, kürtaj temasından bahsettiği kadar turizmle yaşayan bu küçük şehirlerin acısını, yaşadıkları yalnızlığı, macera perestliği bir taraftan bize anlatıyor. Ama tabii ki De André parçası olduğu için de yine idealize edilen devrimcilikten bize küçük tüyolar veriyor. Şimdi Fabrizio De André, Rimini ile radyonuzda. Teresa, gli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno. Le credo. E Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice ho inventato un regno che lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza, abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Ora Teresa è alla risbarra, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere. Fabrizio De Andre'den Rimini'yi dinledik. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. Bugün Itabella'da denize ait şarkılar var. Denizden gelen şarkılar var. Çünkü İstanbul'da deniz ölüyor. Bize bağırıyor. Itabella'dan da sesini böyle duyurmaya çalışalım Marmara Denizi'nin diye. Deniz şarkıları var. Bizlere şimdi 1987 yılında İtalya'yı Eurovision'da temsil eden bir parça bekliyor sırada. Umberto Tozzi ve Raff'ın söylediği bu blues tadındaki balad şehre hapsolmuş, şehrin tutsağı olmuş insanların ve deniz halkının özgürlüğüyle çelişen dünyayı bize anlatıyor. Denizin insanlarının parçası olan Gente di Mare şimdi radyonuzda. A noi che siamo gente di pianura,

manca il silenzio, rinchiuso dentro a sfere d'aria. Lo guardo allontanarsi e diventare l'universo in fondo al mare. Dedicami il tuo spazio e questo immenso blu. Quale distanza serve per toccare terra? Voglio restare dentro questo quadro blu, qui in fondo al mare. Questo immenso quale distanza serve per toccare terra? Voglio restare dentro questo quadro blu, qui in fondo al mare, qui in fondo al mare. Doğal Mare ile Christina Dona radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da denize dair, deniz için şarkılar vardı. İki tane ustayla arka arkaya kapatmak istiyorum. Çünkü çok fazla vaktim kalmadı. Öncelikle Piero Ciampi, Sul Porta di Livorno ile radyonuzda olacak. Bu bir balıkçının kızının, balıkçının kızına duyulan aşkla ilgili bir şarkı. Çok güzel bir şarkı bence. Ve hemen arkasından da Paola Conte gelecek. Un Giornata al Mare ile radyonuzda olacak. Ben Cansın Sağesen. Denize iyi bakın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Era la dolce figlia di un uomo solitario. Tra il loro amore, il mare, lui era un pescatore. Prima un bacio, poi un altro. Ogni sera un addio. Lei gli porgeva un cestino e sorrideva al destino. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno. Le luci si accendevano sul mare. Era un giorno strano. Mi rifiutai di credere che fossero lampare. Al ritorno ero amaro, anche se sorridevo. Era tutto cambiato, mi sentivo un estraneo.